Questo ucciderà quello. Il libro ucciderà l'edificio. Era il timore da parte del sacerdozio di fronte a un fenomeno nuovo, la stampa. Era lo spavento e lo stupore dell'uomo del santuario di fronte al torchio luccicante di Gutenberg. Erano il pulpito e il manoscritto, la parola detta e la parola scritta, che la parola stampata allarmava. Voleva dire che una potenza stava per sostituirsi a un'altra potenza. Voleva dire la stampa ucciderà la Chiesa. Era il presentimento che il pensiero umano, mutando forma, si accingesse a mutare modo d'espressione, che l'idea capitale di ogni generazione non si sarebbe scritta più con la stessa materia e nello stesso modo, che il libro di pietra, tanto solido e duraturo, stesse per cedere il posto al libro di carta, ancora più solido e duraturo. La stampa ucciderà l'architettura. In effetti, dall'origine delle cose fino al XV secolo dell'era cristiana inclusa, l'architettura è il grande libro dell'umanità. Quando la memoria delle prime razze si sentì sovraccarica, quando il fardello dei ricordi del genere umano divenne tanto pesante e confuso che la parola nuda e volante rischiò di perderne lungo il cammino, li si trascrisse sul suolo, nel modo più visibile e nel contempo più naturale. Si suggellò ogni tradizione sotto un monumento. I primi monumenti furono semplici masse di pietra. L'architettura cominciò come ogni scrittura, fu innanzitutto un alfabeto. Si piantava dritta una pietra ed era una lettera, e ogni lettera era un geroglifico, e su ogni geroglifico si reggeva un gruppo di idee come il capitello sulla colonna. Così fecero le prime razze, ovunque, contemporaneamente, sull'intera superficie del mondo. Dopo furono create le parole. Fu sovrapposta la pietra alla pietra, furono abbinate quelle sillabe di granito, il verbo provò qualche combinazione. Talvolta accadeva anche che quando si disponeva di molta pietra e di un'ampia spiaggia, si scrivesse una frase. Il pilastro che è una lettera, l'arcata che è una sillaba, la piramide che è una parola, messa in moto contemporaneamente da una legge geometrica e da una legge poetica. Si raggruppavano, si combinavano, si amalgamavano, scendevano, salivano, si contrapponevano sul suolo, si ammassavano nel cielo, finché non ebbero scritto, sotto il dettato dell'idea generale di un'epoca, quei libri meravigliosi, che erano anche dei meravigliosi edifici. Così, durante i primi 6.000 anni del mondo, a partire dalla più remota pagoda dell'Indostan fino alla cattedrale di Colonia, l'architettura è stata la grande scrittura del genere umano. Ed è talmente vero che non solo ogni simbolo religioso, ma anche ogni umano pensiero ha la sua pagina e il suo monumento in quel libro immenso. Perciò, fino a Gutenberg, l'architettura è la scrittura principale, la scrittura universale. Alle lettere di pietra d'Orfeo succederanno le lettere di piombo di Gutenberg. Il libro sta per uccidere l'edificio. L'invenzione della stampa è il più grande evento della storia. Sotto forma di stampa il pensiero è più imperituro, è volatile, inafferrabile, indistruttibile, si confonde all'aria. Al tempo dell'architettura diventava montagna e si impadroniva possentemente di un secolo e di un luogo. Adesso si fa stormo d'uccelli, si sparge ai quattro venti e occupa contemporaneamente ogni punto dell'aria e dello spazio. A mano che l'architettura cala, la stampa si ingrossa e cresce. Il capitale di forze che il pensiero umano spendeva in edifici, ormai lo spende in libri. Un libro è presto fatto, costa così poco e può andare così lontano. Come meravigliarsi che l'intero pensiero umano vada per questa china? L'architettura non sarà più l'arte sociale, l'arte collettiva, l'arte dominante. Il grande poema, la grande opera dell'umanità, non sarà più costruita, sarà stampata. È certo che nell'epoca architettonica i poemi assomigliano ai monumenti. Nel XIII secolo Dante è l'ultima chiesa romanica, nel XVI Shakespeare è l'ultima cattedrale gotica. È lecito rimpiangere la maestà visibile della scrittura di granito, quei giganteschi alfabeti costituiti da colonnati, pilastri, obelischi, quella specie di montagne umane che coprono il mondo e il passato, iniziando dalla piramide fino ad arrivare al campanile, da Cheope a Strasburgo. Bisogna rileggere il passato su quelle pagine di marmo. Bisogna ammirare e incessantemente risfogliare il libro scritto dall'architettura. Ma non bisogna negare la grandezza dell'edificio a sua volta innalzato dalla stampa. Oggi quello ucciderà questo è lo stesso modo di vedere e la medesima preoccupazione che il libro di carta ha nei confronti del libro elettronico. E queste pagine che avete ascoltato sono tratte da Notre-Dame de Paris di Victor Hugo.